dell'invito che è arrivato dalla Biblioteca Provinciale di Lingua Italiana per la presentazione di questi temi, che sono temi che ovviamente riguardano da vicino la nostra città, la nostra zona, la storia che ne è collegata. Farò un'introduzione io di qualche minuto sulla storia delle minoranze nell'impero asburgico. Sono storie che nel tempo hanno evoluzioni molto particolari e ci aiuteranno. Mi sentite? Dopo aver ricordato, siamo partiti, allontano. Dopo aver ricordato che la legge fondamentale che garantiva le minoranze in tutto l'impero asburgico è stata ufficializzata nel 1867, che è una data importantissima perché è la data che fa nascere la vera e propria Austria-Ungheria. Noi siamo abituati spesso ad associare impero asburgico ad Austria-Ungheria. L'impero asburgico è Austria-Ungheria dal 1867, cioè da quando, persa la battaglia famosa di cui parlavo prima, per l'egemonia sulle genti tedesche, sconfitto dai prussiani a Sadova, Francesco Giuseppe si trova a dover scendere a patti con la seconda delle nazionalità più forti dell'impero, cioè gli ungheresi, che dopo essersi ribellati nel 1848 assieme a tre quarti dell'impero, essere stati in rivoluzione per un anno e essere stati sedati nella loro richiesta solo grazie all'intervento degli alleati russi dell'epoca dell'Austria, nel 67 riescono a ottenere una sorta di autonomia ai limiti dell'indipendenza, tant'è che l'impero venne diviso tra Cisleitania e Transleitania, genti governate da Vienna, quelle della Transleitania, cechi, slovacchi, in percentuale ridotta, austriaci, trentini e sloveni, sotto gli ungheresi invece, e polacchi, scusate, e sotto gli ungheresi la maggior parte degli slovacchi, la maggior parte degli slavi del sud, insomma sloveni esclusi, e i rumeni di Transilvania soprattutto. Però appunto questa grande data del 67 provocò un adeguamento amministrativo di tutto l'impero alle novità incalzanti che erano anche quelle di richieste di indipendenza economica, sociale, culturale da parte delle genti che ne facevano parte, e nel 67 proprio c'è il Gesetz, la legge, la statuizione che ufficializza per la prima volta ufficializza la presenza delle minoranze cosiddette all'interno dell'impero. Ora, dicendo che io concludo in breve con quello che è stato il destino legato alla prima guerra mondiale delle genti italiane e non del Tirolo, poi parlerà Vanni D'Alessio di quello che sarà il destino delle genti giuliano istriano dalmate. Una cosa importante da sottolineare per capire bene le dinamiche della prima guerra mondiale è sapere che l'Italia era alleata da un'alleanza statuita 30 anni prima, nell'82, da Crispi con Bismarck e con Francesco Giuseppe, era legata per l'appunto alla Germania e all'Austria da un patto che era la triplice alleanza, un patto che provocò all'epoca molte polemiche in Italia perché era praticamente la statuizione della rinuncia al completamento geografico dell'Unione delle genti italiane, e in Germania con gli italiani era considerato comunque una scelta di basso profilo rispetto a altre possibilità, ma la Germania era governata da Bismarck e Bismarck non si discuteva, insomma, e in Austria perché molti dei parlamentari, molti degli aristocratici, anche dell'entourage della corte di Francesco Giuseppe chiesero se non sarebbe stato meglio liberarsi subito in quel momento delle genti italiane, che geograficamente sarebbero indubbiamente dovute appartenere all'ambito del Regno d'Italia, e che nel loro essere mantenute all'interno dell'impero asburgico avrebbero sicuramente provocato dei problemi, perché la previsione di uno scontro magari non mondiale ma molto importante era presente fin dal 1856, una guerra che è stata posticipata a 60 anni ma che era nell'aria e che tutti erano pronti a combattere sicuramente almeno dal 1880. L'Italia non entrò in guerra nel 14, l'Italia entrò in guerra nel 1915 dopo un anno di neutralità. In particolare De Gasperi, che era all'epoca parlamentare a Vienna, lottò tantissimo, lottò strenuamente per evitare che l'ingresso della guerra in dell'Italia in guerra provocasse ritorsioni sugli italiani di confine, fossero i trentini, fossero gli istriani, Giuliano Dalmati, perché ovviamente una cosa era rifarsi sugli italiani dell'esercito del Regno Italiano, una cosa era prendere e deportare persone a scopo preventivo dalle zone di confine dell'impero austro-ungarico, che erano con l'Italia zone spesso italiane, insomma spesso etnicamente italiane. L'Italia, Sonnino in particolare, ministro degli esteri dell'epoca, prima di entrare in guerra è scesa in trattative con gli alleati e con gli alleati suoi veri e propri, cioè la Germania e l'Austria, Ungheria, ma anche con quelli che erano invece l'intesa cordiale cosiddetta, cioè inglesi, francesi e russi. Quello che cercava di ottenere era sicuramente il Trentino inteso per quello che è oggi il Trentino Alto Adige, cioè il Trentino era inteso dal Brennero a sud. La richiesta avvenne per prima a Vienna. Se Vienna concede il Trentino all'Italia, l'Italia garantisce neutralità per tutta la guerra. La Germania è favorevole, la Germania suggerisce a Francesco Giuseppe di accettare la soluzione proposta dagli italiani. Io dico Francesco Giuseppe, ma in realtà Francesco Giuseppe è la figura di riferimento, diciamo, quasi mistica. Le decisioni non le prendeva nemmeno in ambito di politica estera, che era quella che più gli spettava. Diciamo la corte e il ministro degli esteri in particolare, i ministri degli esteri che si sono alternati, e Konrad von Otzendorf in particolare. E mentre la richiesta effettuata agli alleati inglesi, francesi e russi di ricompensa con le terre istriane, con il Trentino Alto Adige attuale, le terre da Brennero in giù, in cambio della partecipazione come alleato al loro fronte, vennero accettate, e nel giro di 2 settimane l'Italia passò dalla neutralità all'intervento armato a fianco di Inghilterra, Francia e Russia. E ovviamente tutto quello che riguarda le curiosità legate al mio intervento, che qui finisce, le soddisferò volentieri alla fine dell'intervento di Vanni D'Alessio, dove spero ci possa essere un dibattito, e spero di poter rispondere a domande in maniera da essere magari meno noioso e più puntuale nelle curiosità che ci possono essere. Parola a Vanni. Allora, visto che Vania conclude con la guerra, io posso cominciare dalla fine della guerra e vado a ritroso. Ho fatto alcuni studi sul periodo anche successivo alla Prima Guerra Mondiale, quindi se nel corso del dibattito vi fa piacere possiamo anche chiacchierare, sicuramente Vania per la parte, diciamo, ex tirolese è a conoscenza di cose, io ne so molte poche sul territorio dell'Alto Adige, ne so di più sull'Istria, ma sicuramente Alto Adige e Istria sono legate in qualche maniera. sono legate nella storia d'Italia perché, se non altro, avevano un passato comune. Quando entrano, quando sono redente, le due province dell'Alto Adige e dell'Istria, quando finisce questa lunga lotta del redentismo, che poi in effetti la lotta concreta fu la prima guerra mondiale, insomma, l'Italia, il Regno d'Italia, si ritrovò con queste due province che allora facevano parte della cosiddetta Venezia Giulia, l'Istria, della Venezia Tridentina, per poco tempo l'Alto Adige, e si pose il problema di queste autonomie austriache di cui ha parlato Vania, autonomie che nell'ambito asburgico erano molto più ampie di qualsiasi cosa potesse o avesse mai dato o potesse dare l'Italia, che era uno Stato nazionale a tutto tondo, non aveva avuto problemi di minoranze fino ad allora. E poi, in effetti, queste due province erano abitate da altre popolazioni e seguirono in qualche maniera le vicissitudini anche del periodo delle due guerre, con l'affermazione del regime, eccetera, eccetera. Ma quello di cui parliamo oggi, in effetti, è quello che succede prima. Sicuramente nel periodo tra le due guerre c'è un problema di contrapposizione tra gruppi e con uno Stato nazionale che al centro protegge una minoranza, o almeno una componente nazionale rispetto all'altra. Qua in Tirolo, appunto, in Istria si tratta di minoranze diverse, però il problema in qualche maniera non è così diverso. Quello di cui io mi sono occupato, almeno per questo libro, è come si arriva a un momento in cui esiste una contrapposizione, come si arriva a un momento in cui la popolazione in qualche maniera sceglie da che parte stare o incomincia a sentire un rapporto con la propria identità, con la propria lingua, con la propria cultura, tale da arrivare anche a contrapporsi all'altro, a sentire anche dei sentimenti di ostilità, qualora ci siano appunto dei momenti di contrapposizione politica, addirittura scontrarsi, insomma, è quello che avveniva in maniera anche a volte scherzosa a delle elezioni politiche, in cui c'erano canzonature, quasi tratta di città. Vania ha parlato di questo impero asburgico e delle varie aree che lo abitavano. È chiaro che in ogni area esistevano delle maggioranze e delle minoranze numeriche, però molto spesso in alcune città e in alcune regioni proprio popolazioni di diversa lingua e cultura potevano essere proprio intrecciate e vivere l'una accanto all'altra. In questi casi la mobilitazione politica, le elezioni per il controllo appunto di queste che erano le amministrazioni locali, coincideva con una lotta di tipo nazionale, perché i partiti, nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dell'impero, ottenevano consensi in base al fatto, appunto, si trattava di partiti nazionali, quindi partiti nazionali, liberali, italiani in Trentino o nell'Istria o a Trieste, cercavano consensi dalla popolazione italiana in nome di un'appartenenza di patria, così facevano sloveni e croati, e così si faceva, diciamo, generalmente per tutto l'ambito dell'impero. Esistevano poi altri tipi di schieramenti che in qualche maniera tagliavano questo tipo di contrapposizione, per esempio i socialisti, ma poi esistevano anche i cristiano-sociali, che a volte erano più nazionali, a volte lo erano meno, e insomma c'erano poi altri tipi chiaramente mobilitazioni, però sicuramente la mobilitazione nazionale fu una forte risorsa. La propaganda nazionale fu uno strumento utilizzato per avere molto spesso una serie di gruppi, partiti politici che si imponessero sulla scena politica del paese, del villaggio, della città, della regione, facendo chiaramente riferimento alla differenza tra le lingue, alla differenza tra le persone sulla base nazionale. In qualche maniera si ampliò sicuramente una logica di schieramento molto forte, quindi associazioni che furono fondate, che aiutarono in qualche maniera questa contrapposizione a crescere, finché si arrivò appunto agli anni prima della Prima Guerra Mondiale, e in cui in alcuni casi la contrapposizione diventava un po' difficile da sanare. Io vi ho fatto, insomma, un quadro in 448, cerchiamo adesso di capire un po' bene, piano piano. Chiaramente non posso qua in pochi minuti essere così chiaro e, non so, e piano, come ho cercato di essere, spero di esserci in parte riuscito nel libro, però quello che ho cercato di fare in questo, nel libro, è proprio cercare di capire come a partire da un territorio che era abitato in, insomma, per secoli da popolazioni italiane, slovene, croate, come piano piano delle forme appunto di appartenenza incominciano a diventare un po' conflittuali, come nasce il conflitto, dove nasce poi il nazionalismo in qualche maniera. L'Istria era sicuramente una regione un po' diversa dal Tirolo, dal Sud Tirolo, insomma da questa area dell'Alto Adige. C'erano alcune appunto cose in comune. In comune c'era appunto questo, in una parte dell'Istria, il lungo passato asburgico. Gli Asburgo arrivano a Trieste nella seconda metà del XIV secolo, ma arrivano anche nella contea di Gorizia, e parte della contea di Gorizia, o almeno era la cosiddetta contea di Pisino, e quella che poi viene definita l'Istria asburgica, una serie di piccole regioni e province feudali che arrivano poi fino a Fiume, fino a Castua, che per molti secoli, vedete un po' nella mappa, io l'ho in qualche maniera, non c'è questa contrapposizione, però se potete immaginare una linea che più o meno parte da Trieste, poi attraverso, vedete, Materia e Castelnuovo entra dentro l'Istria, Pinguente no, però insomma subito sotto Pinguente, arriva fino a tutto attorno Pisino e ne fa parte Antignana, Gemino, Pedena, Lindaro, tutte queste cittadine dell'Istria centrale, e poi subito sopra Albona sale su verso Fiume. Questa era la cosiddetta Istria asburgica. Non a caso, in quest'altra mappa, più o meno rappresenta l'area di maggioranza nella mappa austriaca delle nazionalità, l'area di maggioranza, almeno così come è definita come rappresentata in questa cartina, di maggioranza slovena su e croata giù. In effetti poi le cose non sono così semplici. Perché? Perché anche nell'area asburgica c'erano dei borghi e delle cittadine in cui la maggioranza della popolazione era italiana. Così come nell'area presunta italiana c'erano delle campagne e delle piccoli villaggi in cui la maggioranza era croata o slovena. Però questa differenza tra questa parte dell'Istria, che era cosiddetta Istria austriaca, e il resto dell'Istria, che è la cosiddetta Istria veneziana, dove invece nello stesso secolo, tra 300 e 400, Venezia incomincia a imporre il proprio potere, in quest'altra parte dell'Istria cresce chiaramente molto più facilmente un'interazione in un dialetto veneto e una lingua italiana. Però non è detto che tutta la popolazione che abitava nell'Istria veneta era italiana, poi diventa italiana, anche perché era una specie di impero, chiamiamolo così, che non aveva nessun interesse a far diventare né veneziani né italiani tutti i suoi sudditi. L'importante è che chiaramente, insomma, il ceto dirigente, che parlare in una lingua che poi diventa sempre più l'italiano. E però al suo interno c'erano delle campagne in cui abitavano slavi, croati, sloveni, che anzi molto spesso i veneziani insediano nel territorio. Nel 600 ci sono delle pesti, delle carestie dovute alla guerra, tra l'altro tra Istria e Venezia, e sia austriaci che veneziani insediano popolazioni di diversa zona, insomma, di diversa provenienza in quest'Istria, che era quasi spopolata dalla peste. E allora, gli Asburgo, per esempio, chiamano molte popolazioni dal proprio territorio, quindi sia dai confini militari, ma anche dalla Carniola, ma anche dal Friuli, dal Friuli che era controllato dagli Asburgo, quindi popolazioni tra l'altro di lingua italiana, anche vicino Udine, insomma, dai canali Bertossi, per esempio. Arrivano vicino Pisino, che è l'area più croata, che non è la città di Pisino, ma intorno a Pisino la campagna era fondamentalmente di interazione slava, croata, e questi Bertossi, questa famiglia Bertossi, piano piano si insedia, alla lunga, nel corso dei 2-3 secoli, 4 secoli che i Bertossi sono là, diventano Bertoci. Così come Venezia, che chiama dalle aree balcaniche, una popolazione di lingua, di interazione, quello che volete, insomma, slava, serba, croata, piano piano li inserisce in aree dell'Istria che sono a maggioranza o vicini alla città, che gestiscono commerci, mercati con i cittadini delle città venete, Parenzo, Pola, Rovigno, Capodistria, eccetera, Cittanova, piano piano queste persone entrano in una sfera di contatti veneta, istroveneta, istroromata, e anche se hanno cognomi che a volte ne danno il senso della loro origine, diventano perfetti italiani, anzi non solo perfetti italiani, perfetti irredentisti nell'Ottocento. Questa situazione in qualche maniera fa sì che, insomma, non ci permette di vedere delle continuità nei secoli tra italiani e sloveni e croati, ma una situazione un po' mista in cui contano moltissimo allora cosa. Sicuramente questo confine austro-veneto conta molto, ma non solo, perché come vi ho detto all'interno delle due aree, dell'Austria e di Venezia, c'erano insomma, gruppi di diversa lingua. Conta moltissimo la differenza tra città e campagna, conta moltissimo la città, zona di interazione, soprattutto in una lingua italiana, il mercato, la campagna molto spesso croata o slovena, ma non è sempre così, perché intorno a Buje molte campagne, intorno intorno a Buje, intorno a Dignano, vedete sulla cartina dell'Istria, insomma Buje è nord-ovest, vedete qua, quindi intorno a Verteneio, c'è tra la campagna tra Umago, Buje, Verteneio e Cittanova, anche la campagna era di interazione veneta, italiana, eccetera, eccetera. E così anche la zona intorno a Dignano, valle, giù verso Pola, e anche la campagna, anche i contadini parlavano un veneto soprattutto. E invece, insomma, perché sono arrivato qua, poi mi sono perso il microfono, eccetera. Ecco. E, come dicevo, quindi le cose, insomma, città, campagna è una variabile importante, zona ex austriaca, zona ex veneziana è un'altra variabile importante, però soprattutto sono anche importanti le dinamiche sociali economiche. Di solito chi interagiva a un certo livello nella scala sociale ed economica, cioè chi diventava, insomma, incominciava a avere delle proprietà, incominciava a fare, c'era una mobilità sociale un po' chiaramente limitata, però non è che era inesistente, c'era la possibilità piano piano di arricchirsi. Questa situazione divenne ancora più forte chiaramente dopo il 1848, con la fine della feudalità, però diciamo chi da una situazione di artigiano, di oste, incominciava ad avere delle possibilità economiche, magari pure si trasferiva in città, oppure incominciava ad avere dei commerci, incominciava a mandare figli a scuola, ed era di origine croata, slovena, slava o cos'altro, si italianizzava. Questo chiunque. E quei Bertossi di cui vi ho detto prima, anche se arrivano nel 500, 600 come dei friulani, anche se fossero di lingua italiana, i Bertossi erano vicino a Udine, probabilmente lo erano, diventano a lungo andare nella campagna croata, si croatizzano. E se arriva all'Ottocento, perché fino all'Ottocento questi non sono dei problemi tra slavi e italiani, c'è un'interazione, c'è una gerarchia sociale, chiaro. Come vi dicevo, insomma, la classe medio-alta più italiana, che si italianizza, che usa la lingua italiana come una culturnazione, per cui le scuole fondamentalmente che avviano ai studi sono di solito in lingua italiana, i seminari magari sono anche, insomma, le scuole parrocchiali, oppure cose che i preti nella zona dell'Istria incominciano a organizzare a metà dell'Ottocento possono già essere invece in croato o in sloveno. La contrapposizione tra austro-veneta, per non dilungarci molto, era finita con Napoleone. Dopo l'Austria aveva occupato tutta l'Istria, che era entrata a far parte del cosiddetto litorale austro-illirico, e in quest'Istria, diciamo così, tutta asburgica, curiosamente finisce Venezia, l'Austria era, diciamo, Pisino era il centro di questa Istria asburgica, e quando finisce il confine tra Istria asburgica e Istria veneziana, la classe media di commercianti e di imprenditori italiani riesce anche a circolare più facilmente attraverso il confine. Quindi curiosamente si dice sempre che Venezia ha fatto sì che in Istria, ma anche in Dalmazia, ci fossero italiani. Curiosamente la fine del confine, quindi la fine di Venezia, riesce a far espandere la cultura italiana anche nelle aree in cui non c'era Venezia. Quindi una serie di contraddizioni nella storia, è chiaro. La cartina etnografica della metà dell'Ottocento, che di per sé è una cartina, diciamo, che dà adito a una serie di polemiche tra austriaci, italiani, tra governo austriaco e elite intellettuale italiana, mostra, insomma, è fatta da italiani, mostra una maggioranza italiana, fatta dalla Commissione di Vienna, mostra una minoranza di italiani. Già nel 48, appunto, queste prime proiezioni etnografiche, che erano basate su uno studio di etnografi degli usi e dei costumi o della lingua materna della popolazione, però incomincia a entrare nel dibattito politico. Il dibattito politico è poi quello che piano piano incomincia a creare una serie di contrapposizioni. All'inizio sono contrapposizioni tra italiani, ceto italiano e Vienna, anche se qua di solito, insomma, l'Alto Adige entra in una specie, soprattutto dal punto di vista dell'italianità, di mitologia, in cui il Trento è un punto di riferimento e l'Istria ha come punto di riferimento nella mitologia redentista Trieste, questa coppia Trento-Trieste, no? Eppure nel 48, almeno io posso dire poco di Trento, posso dirvi di Trieste, nel 48 i due deputati alla Costituente austriaca da Trieste, uno è un tedesco e l'altro un italiano. In Istria invece c'erano 5 deputati, il 48 è un po' l'inizio della politica, perché fino ad allora praticamente c'era un assolutismo, quindi non c'erano elezioni. La politica inizia nel 48 con questi moti che fanno decidere anche al governo di Vienna per la Costituzione, la Costituente quindi si vota a suffragio universale maschile, per chi poteva esprimere un voto, però era, insomma, non c'era una logica di classe in quel momento, insomma, si poteva, era, insomma, poi queste logiche verranno piano piano negli anni 60-70 per restringere l'accesso al voto, che poi si allargherà piano.